giornata mia in cui ero puro. Forte di me, come l'erba è più forte del toro. Lei vedeva che ero cattivo e mi amava e non chiedeva dove. Dove andasse la strada, a cosa mai portasse. Quando lei mi donava il suo corpo, mi diceva questo è tutto e diventava il mio corpo. E adesso lei non è più, è scomparsa come la nube dopo la pioggia. La mia mano l'ha lasciata ed è caduta, perché era quella la sua strada. Ma la notte, quando voi mi vedete bere, vedo il suo viso pallido laggiù nel vento, ed io mi inchino verso il vento, a quello sguardo forte che piange per me.